Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alla cosiddetta questione animale, che vuole dare la parola a quel vasto movimento di pensiero, opinione e scelte concrete che chiede di ridiscutere su nuove basi la relazione che ha la società umana con il resto del vivente. È una questione etica e di giustizia, ma anche ambientale e di sopravvivenza per tutto il pianeta. Il nostro faro è il pensiero non violento e il nostro slogan è vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 472, nella quale parleremo di pastori che non ce lo danno a bere, insetti perduti, cinema e meno pelo per tutti. Speriamo di avervi incuriositi. Commentando un fatto di cronaca. Tutti abbiamo visto le foto impressionanti delle centinaia di migliaia di litri di latte di pecora versate in strada per protesta dai pastori sardi per la questione della riduzione del prezzo del latte di pecora crollato a causa di un eccesso di offerta. Il latte di pecora viene pagato oggi 60 centesimi al litro, il 30% in meno rispetto a 6 mesi fa, quando il listino segnava 85 centesimi. Ma dire che il latte è di pecora significa qualcosa che a noi non sfugge e che vogliamo portare alla vostra attenzione attraverso un bell'articolo che è stato pubblicato sul blog animalista antispecista www.veganzetta.org, che vi suggeriamo di tenere d'occhio. Fiumi di latte di pecora scorrono per le strade e nei canali in Sardegna ormai da molti giorni. I pastori sardi sono in rivolta a causa del prezzo troppo basso del latte e come metodo di lotta per attirare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica non hanno trovato di meglio che gettare sull'asfalto quello che ritengono essere il frutto del loro duro lavoro. La diatriba è tra allevatori e filiera produttiva casearia, con lo Stato chiamato in causa dai primi a fare da mediatore. Insomma, una questione squisitamente economica e commerciale per spuntare un miglior prezzo al litro di quell'oro bianco della Sardegna, che però ha anche dei chiari risvolti culturali e identitari. Le considerazioni da fare sulla vicenda sarebbero molte, ma come antispecisti è opportuno concentrarsi su un unico argomento, che peraltro secondo noi è il principale, il latte. Si parla ormai di circa 1 milione di litri sversato o dato in pasto a sos porcos in sardo ai maiali, non è propriamente frutto del lavoro e del sudore dei pastori, bensì più onestamente il risultato dello sfruttamento, del dominio e della schiavitù di circa 3 milioni di animali per motivi economici, dato che a tanto ammonta il numero delle pecore attualmente allevate in Sardegna. La disperazione di cui dovremmo tenere conto in questi casi è quella di chi soffre a causa della schiavitù e non degli schiavisti che si lamentano dei loro magri guadagni. Lasciamo che i pastori si scontrino con le logiche e gli inarrestabili ingranaggi del mercato a cui direttamente e convintamente partecipano e lavoriamo affinché ogni tipo di allevamento presto e definitivamente scompaia dalla nostra società, ivi compresa la pastorizia. E questo era l'articolo tratto da www.veganzetta.org. Come sa chi ci ascolta da più tempo, teniamo costantemente d'occhio le programmazioni cinematografiche per proporvi quelle pellicole che affrontano la questione animale, che hanno individui animali tra i loro protagonisti o che guardano al mondo attraverso uno sguardo animale. Il nostro fidato amico e collaboratore Emilio Maggio ha recensito per noi alcuni dei più interessanti film degli anni passati. Faccio qualche esempio: Dogman, Isle of Dog, Bella e Perduta, Kong Skull Island e The Herd. Adesso è il turno di Roma, il magnifico film del messicano Cuarón che nel 2018 ha vinto il Leone d'Oro alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sentiamo. Questa pillola è dedicata a un film che ha suscitato un grande clamore mediatico dovuto soprattutto al singolare iter produttivo e distributivo piuttosto che ai suoi notevoli reali meriti artistici. La pellicola è stata infatti prodotta da Netflix, che in cambio ha avuto l'esclusiva assoluta su diritti e su modalità di distribuzione. Si tratta ovviamente di Roma, opera di Alfonso Cuarón, regista apolide ma messicano di nascita, passato alla notorietà per aver diretto precedentemente una singolare opera di fantascienza plurioscarizzata come Gravity. Vorrei parlare di questo film partendo da una prospettiva inconsueta, probabilmente poco presa in considerazione dalla critica cinematografica, ma che sulle frequenze di Restiamo Animali diventa una bella opportunità. Diciamo che questa prospettiva è una prospettiva canina. Il film allora potrebbe essere visto dal punto di vista di Borros, il cane appartenente alla ricca famiglia borghese descritta dal regista messicano. Roma, che è il quartiere di Città del Messico dove Cuarón è nato e cresciuto, trae ispirazione dal disfacimento della famiglia del regista nell'anno di grazia 1971. Tre anni dopo, il massacro di Piazza delle Tre Culture, dove i granaderos dell'esercito messicano spararono sugli studenti inermi che lì si erano radunati per protestare contro il regime fascista di Gustavo Díaz Ortaz, provocando centinaia di vittime 10 giorni prima dell'apertura dei Giochi Olimpici. Il film inizia con il dettaglio di un pavimento lavato. Quel pavimento appartiene al corridoio dove Borros è solito scorrazzare e fare i suoi bisogni. Il corridoio, oltre a un piccolo cortile antistante, il confortevole appartamento, rappresenta lo spazio vitale di Borros, ma è anche il suo spazio di reclusione. Il regista mostra questo corridoio e gli escrementi di Borros per scandire le giornate di questo nucleo familiare, composto da un padre assente e fedifrago, una mamma stressata e dipendente psicologicamente ed economicamente dal marito, una nonna, 4 bambini e 2 domestiche, di cui una, Cleo, è la vera protagonista del film. Il calvario della domestica di origine mixteca, Cleo rimane infatti incinta di un giovane balordo patito delle arti marziali che poi si rivelerà facente parte degli squadroni della morte che nel giugno del 1971 faranno strage di manifestanti e che il film rievoca brutalmente in una delle sequenze più efficaci, viene quindi ripudiata dall'amante per poi perdere la bambina durante il parto, si sovrappone alle lunghe giornate senza senso di Borros. In qualche modo è come se Cleo e Borros fossero l'una il contraltare dell'altro, entrambi reclusi in uno spazio circoscritto, entrambi privi di una vita propria, entrambi inascoltati dagli altri, essi non comunicano se non attraverso l'abbaiare e il dialetto nativo, incomprensibili per i componenti della famiglia. teste impagliate dei cani appartenuti alla una famiglia di latifondisti che fanno bella mostra di sé sulle pareti della ricca Maggiore, dove i Guaronna sono soliti trascorrere le festività natalizie, insieme ai trofei di caccia di cervi e camusci, rimandano tristemente i corpi straziati delle tante vittime passate e presenti del colonialismo e dei regimi dittatoriali che si sono succeduti nel corso del tempo. Il bellissimo piano sequenza finale, vero epilogo del film, quando Cleo, sebbene incapace di nuotare, salva i due bambini, forse il regista stesso, dall'annegamento nelle acque del mare di Veracruz, che riunirà la domestica, i bambini e la mamma in una nuova famiglia allargata, sembra essere un monito all'attuale situazione politica che coinvolge gran parte dell'America Latina, il cui destino dipende oggi, come ieri, dalle lotte delle giovani generazioni e dalle rivendicazioni delle donne e dei nativi. E il continuo abbaiare dei cani del quartiere e il canto degli uccellini in gabbia, che in qualche modo sono la vera colonna sonora del film, diventano un vero e proprio leitmotiv, un grido d'allarme anche per il futuro del Messico, stretto tra la morsa di un nuovo regime e il muro trampiano che sembra materializzare di nuovo gli inquietanti fantasmi dell'imperialismo statunitense. Per questo ritengo che Roma, insieme a Suspiria e a Capri Revolution, film assai diversi tra loro ma accomunati da questa radicalità politica, sia uno dei film assolutamente da vedere oggi in circolazione. I never pick a fight with my Mr. Hyde. I'm just a corner man, baby, standing by with a towel. Whenever I look back, it's all just quack, quack. If only you would believe me, I wouldn't lie anymore. I will never change. I will never change. I will never change. Sono il tipo di fauna che conosciamo meglio, gli animali selvatici la cui vita si mescola più da vicino con la nostra. I ragni nella doccia, le formiche al picnic, le zecche dopo una passeggiata nel bosco. Eppure gli insetti sono uno dei più grandi misteri del nostro pianeta e ci ricordano quanto poco sappiamo di quello che succede nel mondo attorno a noi. Gli scienziati sono allarmati quando si parla del futuro degli insetti e affermano: non possiamo fare altro che alzare le braccia e dire non ci sono più. Stiamo infatti parlando della progressiva riduzione ed estinzione degli insetti del pianeta. Di questo stanno cominciando a interessarsi anche i media, dopo che il mondo scientifico da anni si allarma per i risultati dei monitoraggi. ci riferiamo in particolare a un lungo articolo uscito sul New York Times, che è stato tradotto e pubblicato in italiano dal mensile internazionale, e a una ricerca riportata dal Guardian, prestigioso quotidiano britannico. Stando ai risultati di ben 73 studi storici analizzati in una ricerca pubblicata sulla rivista Biological Conservation, si può parlare di un catastrofico collasso degli ecosistemi della natura. Più del 40% delle specie di insetti nel mondo rischia di estinguersi nelle prossime decadi, secondo la ricerca riportata dal Guardian, che indica una riduzione al ritmo del 2,5% l'anno, secondo le più ottimistiche stime disponibili. Il tasso di estinzione è 8 volte più veloce di quello di mammiferi, uccelli e rettili. Fra le cause principali di declino della specie, la ricerca indica la perdita degli habitat naturali, la conversione all'agricoltura intensiva e all'urbanizzazione, inquinamento principalmente da pesticidi e fertilizzanti sintetici, fattori biologici inclusi gli agenti patogeni e specie introdotte e cambiamento climatico. Qualcuno parla di antropocene, ma Edward Osborne Wilson, biologo statunitense profeta del degrado ambientale, propone un nome diverso. Lui parla di eremocene, ovvero l'era della solitudine. Suggeriscono quindi un ripensamento urgente delle attuali pratiche agricole, in particolare una seria riduzione dell'uso di pesticidi e la sostituzione di essi con pratiche più sostenibili ed ecologiche. Inoltre dovrebbero essere applicate tecnologie efficaci di bonifica per pulire le acque inquinate sia in ambienti agricoli che urbani. Il pianeta è all'inizio della sesta estinzione di massa della storia, con enormi perdite già segnalate negli animali più grandi, che sono quelli più facili da studiare. Ma gli insetti sono di gran lunga gli animali più svariati e abbondanti, che superano l'umanità di 17 volte. Ovviamente l'interesse umano verso gli insetti è per lo più di tipo utilitaristico. Gli scienziati hanno calcolato quello che gli insetti fanno per noi, a partire dall'impollinazione di circa 3/4 delle colture di cui ci nutriamo, un servizio il cui valore è stato stimato intorno ai 500 miliardi di dollari l'anno. Senza contare il fatto che anche l'80% delle piante selvatiche, che sono alla base della vita, sfruttano anch'esse i servizi di impollinazione offerti gratuitamente dagli insetti. Nella valle di Maoxian, in Cina, la carenza di insetti impollinatori ha costretto gli agricoltori ad assumere lavoratori al costo di 19 dollari al giorno ciascuno per sostituire le api. Ogni persona impollina a mano dai 5 ai 10 alberi di mele al giorno. La natura è resiliente, ma la stiamo portando a tali estremi che prima o poi il sistema collasserà. Un bicchierino monouso di caffè, l'incarto di una confezione di M&M's, un involucro con una scritta in arabo, 7 filtri a forma di dischetto che a milioni un anno fa erano finiti in mare a causa di un guasto a un depuratore alla foce del fiume Sele. Questo è il contenuto trovato nello stomaco di un esemplare maschio adulto di Caretta Caretta, trovato morto sulla spiaggia di Camerota nel Cilento. Nel 1995 i Radiohead, nell'album The Bands, inseriscono un brano che parla di un mondo in cui la natura sarà sostituita dalla plastica. Fake Plastic Trees. Clean plastic watering can, or a fake Chinese rubber plant, and a fake plant. But you Entomologico, cioè dedicato agli insetti, ma in modo del tutto innocuo e cruelty free anche la ricetta di oggi, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico-gastronomico, il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà. Fa un gran parlare degli insetti, purtroppo anche in cucina. Già, perché guai a mettere in pericolo la tradizione della cucina regionale italiana con la blasfemia vegana. Ma poi vorrebbero farci mangiare i poveri grilli, scarafaggi, cavallette e compagnia bella. Qualcuno afferma che gli insetti saranno il cibo del futuro, perché potrebbero resistere anche ad una guerra atomica. Ma non sarebbe più sensato fare in modo che non ci fosse un pericolo atomico, piuttosto che diffondere un'ennesima abitudine violenta? Per quanto mi riguarda, vedo un solo possibile abbinamento fra cibo e insetti, ed è il picnic. Quindi dedico a queste piccole vite la ricetta per la famosa focaccia di reco con stracchino vegetale, ottima da tagliare a pezzetti e portare in uno stiloso cestino di vimini su un bel prato. D'obbligo, ça va sans dire, una tovaglia a quadri. Gli ingredienti per 4 persone sono, per lo stracchino vegetale, 100 g di yogurt di soia, 150 g di latte di soia, 20 ml di olio extravergine di oliva, 30 g di farina tipo 0, un cucchiaino di fecola di patate, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie e sale. Per la focaccia, 250 g di farina di grano tipo 0, 2 cucchiai di olio extravergine, 125 ml di acqua e del sale. Iniziate preparando lo stracchino vegetale. In un tegame unite l'olio extravergine, la farina, la fecola e un pizzico di sale e fate rosolare a fuoco lento. A parte fate scaldare il latte di soia con lo yogurt e il lievito alimentare. Versate lo yogurt caldo nel roux mescolando con una frusta. Lasciate a fuoco lento fino a quando non avrà ottenuto la densità di una crema liscia e soda. Versate in un contenitore di vetro e fate riposare fino a quando si sarà addensato. Adesso preparate la pasta per la focaccia. Disponete la farina a fontana e lavorate, partendo dal centro, mescolando con l'acqua tiepida, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio extravergine. Lavorate fino ad ottenere un impasto morbido. Quindi fate riposare per mezz'ora a temperatura ambiente coprendo con un panno. Stendete metà della pasta in una sfoglia molto sottile. Con metà impasto dovrete ottenere un rettangolo grande quanto una teglia da forno. Con un cucchiaino disponete lo stracchino vegetale su tutta la sfoglia. Adesso tirate l'altra parte della pasta in una sfoglia altrettanto sottile e coprite la precedente. Fate pressione sui bordi con le dita in modo da sigillare la focaccia. Praticate delle piccole incisioni sulla superficie e spennellate con l'olio extravergine. Infornate a 220 gradi per circa 15 minuti. La focaccia dovrà risultare croccante e dorata. Il mercato mondiale della pellicceria sta crollando anno dopo anno. Grazie alla sensibilizzazione, sempre più consumatori non indossano pellicce e sempre più marchi di moda e stilisti hanno scelto di non utilizzarle. Tutto questo si sta facendo sentire sul settore e i numeri parlano chiaro. Ce lo dice l'associazione Essere Animali. Dal bilancio 2018 della casa d'asta scandinava Saga Furs, una delle più importanti del mondo, emerge che lo scorso anno i prezzi delle pelli di visone e di volpe sono diminuiti rispettivamente del 24% e del 20% rispetto al 2017. Non passa mese poi che una grande brand della moda o un famoso stilista non prenda posizione contro l'uso della pelliccia. Pertanto, anche nelle più importanti sfilate mondiali, le pellicce sono e saranno sempre meno. Alla scelta Fur Free hanno aderito recentemente grandi nomi come Armani, Gucci, Versace, Michael Kors, ma anche Jean Paul Gaultier, Chanel, Furla e tantissimi altri. Alcune città come San Francisco e Los Angeles hanno addirittura reso illegale la vendita delle pellicce. I tempi stanno davvero cambiando. Una prova concreta è che solo nel 2017 in Italia hanno cessato l'attività 2585 aziende legate alla pelliceria, pari all'11% del settore. Torniamo quindi da dove siamo partiti, con il caso del latte dei pastori sardi. Noi non vogliamo che la gente perda il lavoro e che le aziende chiudano. Ma la parola giusta è riconversione. I ministri, i governi e anche i consumatori dovrebbero aiutare le imprese a transitare verso produzioni cruelty free. È questo l'unico grande progetto economico e di giustizia che potrà riconciliare la nostra specie con il resto del vivente. With a bee, money don't grow on trees, money don't grow on trees. In chiusura vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 473 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.